Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. C'è chi dice che i data center, i grandi centri di calcolo dove decine o centinaia di potenti computer vengono ospitati tutti insieme, dovrebbero essere realizzati al polo nord o al polo sud, insomma dove fa molto freddo. Infatti la maggior parte dell'energia consumata dai data center è legata allo smaltimento del calore che i computer producono durante il loro funzionamento. Bisogna ricordare, per dare un'idea, che un solo rack pieno di server, quindi grande come un armadio, consuma energia elettrica quanto una ventina di famiglie, energia che finisce quasi tutta in calore. E inoltre questi apparati crescono vertiginosamente di numero anno dopo anno. Un'altra soluzione drastica, ma che non richiede insomma di andare fino al polo nord, è un bel bagnetto rinfrescante. Non in acqua naturalmente, ma in un liquido opportuno che non mandi tutto in corto. Anzi, un bioliquido, come fanno quelli del progetto Tortellino HPC. Tecnologia messa a punto dalla società Certec di Bologna e di cui ho incontrato uno dei progettisti, Mirko Sileo. Sentite com'è andata. Prepariamo prima i computer. I computer vengono spogliati letteralmente, quindi vengono tirate via le ventole, viene tirato via tutto lo chassis, la struttura che contiene la mainboard, tutta la parte elettronica. Impermeabilizziamo gli hard disk perché fanno proprio una vera immersione e poi li immergiamo dentro il biofluido. Solo con questa operazione noi arriviamo a un risparmio di quasi il 50%, ma se si calcola che non c'è più bisogno di tutta una struttura di contenimento, quindi di climatizzazione particolareggiata per tenere questi apparati, si riesce ad arrivare anche a un risparmio del 90%. Perché c'è un vantaggio a usare un liquido, così la gente capisce? Per darvi un'idea, adesso i fisici mi picchieranno, comunque a grandi linee siamo circa 10.000 volte più efficienti rispetto all'aria a portare via il calore. Diciamo un'esperienza banalissima: se io mi metto in mutande a 20 gradi di temperatura sto bene, se mi butto in acqua a 20 gradi di temperatura muoio di freddo, no? Sì. Quindi voi usate un liquido, naturalmente non può essere un liquido qualunque, se buttaste in acqua il povero calcolatore farebbe una brutta fine. Un botto mostruoso. Certo, è un liquido innanzitutto dielettrico, che vuol dire che non conduce elettricità, quindi i componenti immersi sono preservati. E un'altra cosa interessante è che proprio questo liquido ci permette di evitare anche la polvere, cosa importantissima. E ci permette di tenere a temperatura ottimale, cioè la sua temperatura di vita, di lavoro, giusta per il processore. D'accordo, d'accordo. Naturalmente questa è una roba che si applica a centri professionali, forse una casa non se lo metterebbe, non lo so. Beh, noi abbiamo fatto anche un'installazione per alcune postazioni grafiche di rendering e roba di questo tipo, abbiamo fatto delle scrivanie particolari, perché l'altra cosa interessante che non vi ho detto è che sono totalmente silenziosi. Ah certo, perché abbattiamo l'inquinamento. Viene abbattuto completamente il rumore. Ecco, ci può dire qualcosa di più di questo biofluido? Che cos'è? Questo biofluido, dopo 2 anni e mezzo di test vari, siamo riusciti a trovare in natura, che era la cosa che ci premeva più di tutti, cioè di non tirare fuori l'ennesimo prodotto che andava a inquinare, quindi problemi anche per noi stessi, egoisticamente parlando, per smaltirlo. Certo, perché poi prima di tutto, e poi per non inquinare l'ambiente. Quindi tramite varie ricerche siamo riusciti a trovare nell'ambito naturale un'essenza, un insieme di essenze che mischiato in una certa maniera ci ha dato la possibilità di tirare fuori questo liquido. Questo liquido è importante perché abbiamo delle temperature di esercizio, noi potremmo arrivare a immergere anche apparecchiature che arrivano fino a 200 gradi. D'accordo, non ci potete dire esattamente da cosa viene perché qui ci sono esigenze di protezione naturalmente. Stiamo cercando di brevettarlo, sono sincero. E certo. Che tra l'altro, se non riusciamo a partire in un senso, lo useremo come ottimo lassativo. Scusate. Avete scoperto anche questo, sì. Anche questo. Ultima cosa, questo fluido caldo, poi che ve ne fate? Questo fluido innanzitutto lui si rigenera, nel senso che porta via il calore, lo cede verso l'ambiente esterno tramite il suo contenitore. Questo calore però noi lo possiamo recuperare in tante maniere, tra cui, come si diceva prima, noi lo utilizziamo per riscaldare il nostro laboratorio. Un armadio da 24 unità riscalda circa 46 metri quadrati di laboratorio, per darvi un'idea. Oppure recuperiamo parte del calore riproducendo l'energia elettrica per far andare gli switch. Con una cosa chiamata effetto Seebeck, che è simile alla termocoppia del fornello, diciamo, alla lontana. a che punto siete dello sviluppo di questo nuovo prodotto? Noi siamo pronti per la preindustrializzazione, cioè abbiamo già questi prototipi funzionanti, di cui uno è stato testato presso l'Università Tor Vergata di Roma, all'ingegneria industriale con il professor Montanari, per dei test di simulazione elementi finiti. E noi siamo pronti a cercare un partner che ci permetta poi di divulgare questa tecnologia. Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.